Buonasera a tutte e tutti, io sono Giulia Caminito e vi sto per leggere un racconto tratto dalla raccolta 10 storie quasi vere, scritto da Daniela Gambaro, una raccolta di racconti che è uscita da poco per la casa editrice Nutrimenti. Questo racconto è quello che chiude la raccolta e che si intitola Mia sorella si illumina. Mia sorella è nata di giorno e quindi non se ne sono accorti subito. Se se ne accorgevano subito era meglio, forse potevano fare qualcosa e invece non se ne sono accorti. La mamma mi ha raccontato che è successo di notte, mentre dormivano tutti nella stanza di ospedale, perché lei era in questa stanza insieme alle altre mamme che avevano avuto i loro bambini da poco. È lì che mia sorella ha iniziato a illuminarsi, come se dentro al corpo avesse una lampadina. Quando è successo, la mamma ha chiamato il medico e hanno visitato subito mia sorella, ma nessuno ha saputo spiegarsi perché mia sorella si accendesse in quel modo. Stava bene, era sana, non c'era motivo di preoccuparsi. Anzi, quando si illuminava diventava ancora più carina, come se un riflettore interno ne esaltasse la bellezza. Tutti si complimentavano per quanto era simpatica e luminosa. Tutti mi chiedevano se ero contento di avere una sorella così graziosa e per di più capace di illuminarsi al buio. E io rispondevo di sì. Ma col passare del tempo mi resi conto che non era vero. Più mia sorella si illuminava, attirando attenzioni e sorrisi, più io mi rabbuiavo, come se la sua capacità di fare luce avesse confinato me in una stanza scura. Non nego che avere una sorella luminosa avesse anche dei vantaggi. Primo, se uscivamo di sera, con lei nella carrozzina, potevamo camminare anche su strade prive di lampioni senza il pericolo di inciampare. Secondo, se di notte c'erano zanzare nella stanza, venivano attratte dalla luce di mia sorella e mi lasciavano in pace, pungendo lei invece che me. Terzo, mia sorella, piacendo a tutti, piaceva moltissimo anche a Margherita, la bambina che abitava di fronte a noi sul pianerottolo. Margherita faceva le medie, aveva 5 anni più di me. E quindi non usciva quasi mai a giocare, anche se era bravissima a basket e anche a Clash Royale. Ora che c'era mia sorella, Margherita veniva più spesso sul pianerottolo e mano a mano che cresceva, lei l'aiutava a fare i primi passi o la spingeva sul triciclo. Io ne approfittavo per parlarci e farmi spiegare come scalare le arene di Clash e per osservare come i capelli neri le cadevano sul viso. Mia sorella cominciò l'asilo nido e quando andavo a riprenderla con la mamma, tutte le maestre non facevano altro che dire quanto fosse dolce, brava e come piacesse agli altri bambini che durante l'ora del pisolino si giravano verso di lei come dei girasoli che cercano i raggi del sole e con la sua luce riflessa sui visini si addormentavano beati. Mia sorella era proprio fortunata a illuminarsi al buio. Non capivo perché non fosse capitato a me di essere luminoso. Di notte strizzavo gli occhi, mi concentravo e ripetevo che la luce sia con me, ma quando li riaprivo, l'unico bagliore nella stanza era quello che emanava mia sorella. Margherita compì 12 anni. Sul pianerottolo fu un viavai di compagne e compagni di classe che arrivavano per la festa. Se Margherita non mi aveva invitato, sicuramente era successo per errore. Così mi avvicinai alla sua porta mentre una ragazzina con i capelli rossi suonava il campanello. E quando Margherita aprì, le chiesi se potevo entrare anche io. Lei, gentile come sempre, mi disse che ora non era possibile perché c'era una festa a casa sua. Come se io non lo sapessi che c'era una festa, come se non sapessi che festa era. Tornai verso casa con le lacrime agli occhi, proprio mentre mia sorella, sfuggita al controllo di mia madre, si avventurava barcollando sulle sue gambette e attraversava il ballatoio in direzione della festa da cui ero appena stato sbattuto fuori. Mia sorella, senza chiedere permesso a nessuno, si infilò in casa e nel breve tempo che mia madre impiegò per raggiungerla, radunò attorno a sé tutte le amiche di Margherita che fecero a gara per prenderla in braccio. Quando poi si resero conto che mia sorella si illuminava, impazzirono di gioia e mia madre faticò non poco a convincere Margherita che mia sorella era troppo piccola per rimanere alla festa da sola. Quando la riportò a casa, più luminosa che mai nella luce crepuscolare di quel tardo pomeriggio invernale, io ero furioso. Mi chiusi nel bagno per non far vedere che piangevo e a mia madre, che chiedeva se stavo bene, dissi solo che mi scappava la cacca. Mi lasciò stare, ma mia sorella riuscì a aprire la porta del bagno e mi venne incontro proprio mentre le lacrime mi cadevano sulle punte delle scarpe. La spinsi e la feci cadere per terra. Anche se il pallolino attutì la caduta, pianse per molto tempo. Quando mia sorella ebbe l'età per andare al cinema, mia madre le cucì un cappuccio con due buchi per gli occhi, in modo che la sua luce non desse fastidio nel buio della sala. Io sedevo vicino a lei e intravedevo comunque quel raggio luminoso che usciva dal contorno degli occhi. Reggevo il secchiello dei popcorn e quando mia sorella allungava la mano per prenderli, io ritraevo il barattolo dicendole che non poteva averne perché il cappuccio non aveva un foro per la bocca. Mia sorella non diceva niente e guardava il film in silenzio. In effetti, per quanti dispetti le facessi, mia sorella non si arrabbiava mai. Poteva piangere sul momento, ma poi era come se si dimenticasse di tutto. Quando c'erano le partite di basket, lei sedeva sempre in braccio a mio padre. Altri sbandieravano bandierine e cuoricini luminosi, ma a lei non servivano. Si illuminava a intermittenza seguendo il ritmo dei cori dei nostri tifosi, per lo più genitori e fratelli. Quando a casa guardavo la televisione, lei si avvicinava e mi saliva in braccio, si sistemava su di me come se fossi una poltrona, mi piantava la testa sulla clavicola finché il respiro non rallentava e si addormentava luccicando. Poi un giorno, improvvisamente, mia sorella smise di illuminarsi. Successe all'ultimo anno di asilo. Eravamo tutti alla recita di fine anno, che era Peter Pan, e lei faceva la parte di campanellino. Doveva aprire la recita entrando e fingendo di volare, il tutto al buio per sfruttare al meglio il suo effetto luminoso. Ma quando entrò in scena, poiché la stanza era del tutto oscurata, nessuno si accorse di lei, per cui mia sorella rimase ferma, buia al buio, finché qualcuno accese la luce e la recita cominciò. Mia madre e mio padre si preoccuparono moltissimo, la portarono subito dal medico perché fosse visitata, ma lui disse che non c'era niente che non andava. La bambina stava benissimo in tutti i sensi e che aveva solo smesso di illuminarsi, ma visto che la cosa non aveva nessuna rilevanza per il benessere della piccola, non era il caso di crucciarsi. Forse avrebbe ripreso a fare luce, ma non era sicuro. Durante le partite di basket, ora mia sorella non si illuminava più in mio onore. All'asilo non era più consolazione per i bimbi impauriti e se uscivamo a fare una passeggiata, poco abituata com'era all'oscurità, poteva succedere che inciampasse su un sasso o si sbucciasse un ginocchio. Mamma e papà le avevano regalato una pila portatile da mettere sempre in tasca, in modo che l'approccio improvviso con l'oscurità non la spaventasse. Ma i più spaventati di tutti erano loro e ogni cosa facessero, per quanto in buona fede, rivelava la loro ansia di fronte a quel cambiamento, di cui mia sorella non poteva che ritenersi responsabile. La nostra stanza era molto buia ora di notte e mamma lasciava accesa una piccola lampada perché ci abituassimo alla nuova situazione. La verità è che per quanto i nostri genitori ripetessero che era tutto a posto e che niente era cambiato, io sapevo benissimo che non era vero. Mia sorella rimaneva una bambina carina, ma la straordinarietà dell'effetto luminoso era sparita e con essa anche le attenzioni dei vicini, dei conoscenti e dei curiosi. Una sera eravamo tutti e due a letto nella nostra stanza e mia sorella mi chiamò. «Che c'è?» le chiesi. «Spegniamo la luce?» propose. Sorpreso allungai la mano e spensi la lampada che mia madre lasciava accesa. La stanza scomparve nell'oscurità. Era la prima volta da quando era nata. La sentii respirare. Valutai se fosse il caso di invitarla a dormire nel mio letto. Era stato un periodo strano per lei e forse le avrebbe fatto piacere. Ma non trovavo le parole adatte per chiederlo e in più le zanzare non mi davano tregua. Mia sorella invece sembrava immobile, il suo respiro era regolare. Evidentemente, ora che lei non era più luminosa, le zanzare preferivano me. «Puoi andare al cinema senza cappuccio ormai?» le dissi. «Sì», rispose poco convinta. «È una bella cosa, no? Puoi anche mangiare i popcorn». Lei rimase in silenzio, poi chiese sospettosa. «Davvero?» La sua voce era piena di ansia e capii di aver fatto un errore, lo stesso che facevano ogni giorno i miei genitori nel tentativo di farle sembrare normale una situazione che non lo era. Anche se non la vedevo, sentivo da come respirava che stava per mettersi a piangere e siccome non mi andava per niente di avere a che fare con lacrime e moccio, pensai a qualcosa da dirle. «Comunque non parlavo dei miei popcorn», chiarii. Mia sorella trattenne il respiro speranzosa. Ora dovevo solo affondare. «Se provi a toccarli», dissi, «giuro che ti stacco le dita a morsi». A quella minaccia così familiare, mia sorella non si prese nemmeno la briga di rispondere, tranquillizzata dalla notizia che almeno tra di noi non era cambiato nulla. La sentii rigirarsi nel letto e poi fermarsi. Si era addormentata. Io invece aguzzai la vista nel buio. Forse ora che mia sorella aveva perso i poteri li avrei acquisiti io e mi preparai a lottare contro le zanzare che mi assalivano da ogni lato inarrestabili e sibilanti come un esercito di Zeta. Questo era un racconto dalla raccolta 10 storie quasi vere, scritto da Daniela Gambaro per la casa editrice Nutrimenti.